Estate di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Saluto la grande Veronica. No, Veronica. Gloria contro Veronica. Sì. Beh, dai, battiamo. Ma no, Veronica. No, allora, Verona, che è una città del Veneto, ma lo saprà. Ma dica qualcosa Veneto, di sensato. Beh, dai, questo Veneto. Ecco. Oh. Se lo ricorda? Non lo so, io lo conosco. Questo arcipelago meraviglioso. Non è un arcipelago. Che c'ha tutte le isolette che puoi visitare, no, con la pagoda. No, non c'è nessuna pagoda. Se lo ricorda quel film con Leonardo DiCaprio? Di Caprio. Romeo e Giuliana. Ma che... Va, capolavoro. Allora, Romeo e Giulietta. Giulietta, sì. Però dica qualcosa veramente di sensato per i suoi tifosi che magari... Beh, un saluto, sì, a Giulietta, sì, e Rodeo. Sì, Romeo, vabbè, sì. So che saranno allo stadio domenica. No, no, la so. Curva di Dori è con voi. No, no, non credo, non credo. Si muove Eder, Gabbiadini va da lui nello spazio. Eder in aria, Eder, contatto con Rafa Márquez. Calcio di rigore e cartellino rosso per Rafa Márquez. Cambia la partita al 26esimo. Eder, perfetto, Samp in vantaggio con il gol di Eder. Un brutto colpo per lei deve essere stata la decisione di Okaka di non rinnovare il contratto con la Samp. No, abbiamo letto. No, per... Davvero? Sì, no, cioè, beh, sui giornali. Okaka è un grande. Certo, certo, assolutamente. Beh, ora corre nelle Fraterie dei Cieli. No, è vivo. Per è me vivo. Era come un figlio. Ma non... Un figlio che... Un figlio. Un figlio. Un figlio? Dai, facciamo questo film. No, ma io allora non voglio. Sono la pronto, prego, al grande passo. No, ma io no. Non... Coroniamola, dai. No, guardi, veramente, dica lo qualcosa. Lo chiamiamo Boban. Sì, ma... Se invece è femmina la chiamiamo Boban. Va bene, la chiamiamo. Mi piace il nome Boban. Abbiamo capito. Verticale, molto bene per Eder. In area di rigore, Eder, il tocco contro Raffaele. Segna la Samp con Gabbiadini, 3-1. Scava nei cuori, chi legge la mano, chi regna sovrano. Ora la Samp è quarta, mentre in Genoa l'eterna rivale è terza. Beh, dai, allora balliamo. No, no, ma rimaniamo lo solo. Lo senti che hanno messo un lento? Non ha messo lento. Lentiamo, niente. Dai, no, grande Nat King Coca-Cola. No, non ha, senta, lei è ossessionato dal ballo, ma no, dica piuttosto qualcosa del Genoa, è stata fortuna. Beh, Genoa, capolavoro, questa grande regione della Cina, scomparsa troppo presto. Ma no, non è morta. Se lo ricorda Atlantide? Atlantide, io ci sono stato. Ma non è possibile. Insieme? No, giusto, ma... un bacetto, eravamo ragazzini. Ma è una città scomparsa. Pierluigi, Okaka è un grande. Okagone. Come va? Benissimo, no, io bene, Franco Piantani da bene, Gianmarco Ferronato bene, tutti bene qui, benissimo la Sampdoria, benissimo il calcio genovese. Oh, rapido aggiornamento della classifica per città, Roma 55, Genova 51. Visto anche ieri sera, possono sognare la Champions. No, ma assolutamente, assolutamente, soprattutto se nessuna delle squadre, diciamo, di budget maggiore, che sono in lotta per il terzo posto, prima fra tutte il Napoli, dovesse cambiare passo. Io credo che se il Napoli trova un po' di continuità sia la favorita per il terzo posto, ma siccome fin qui non sta succedendo, Samp e Genoa devono essere orgogliosissime di quello che stanno facendo e devono anche cominciare a crederci, perché 14 partite sono più di un terzo di campionato. E quindi non è, diciamo, comincia a essere statisticamente rilevante. Sì, è vero che ne mancano solo 24, con solo ovviamente scherziamo, però i verdetti dopo 14 giornate cominciano ad avere un senso. I bilanci li puoi fare, dai. Peccato di dividere. Facciamolo. Peccato di dividere Gabbiadini e Okaka a gennaio. Sì. Anche se poi non mi sembra ancora ufficiale da quello che si apprende in queste ore, quindi è tutto un po' da vedere, anche se il Napoli sembra intenzionato a chiuderla. È un peccato sicuramente, un peccato, ma insomma è anche abbastanza normale che la Samp possa pensare di monetizzare qualcosa in questo momento, di là il fatto che lì poi è una doppia monetizzazione a metà fra Sampdoria e Juventus. Però insomma ci può stare, è vero, è un peccato dividerli, è anche però interessante se andrà a Napoli vedere che cosa potrà fare quel ragazzo in uno, in una squadra comunque costruita con delle ambizioni ancora più grandi, e quindi insomma è una sfida per lui ed è una sfida secondo me che può essere utile per il calcio italiano, al di là del fatto che in questo momento che Biedini, Okaka e Eder, o Eder, insomma, se mi sembra veramente un tridente costruito bene, che unisce alla qualità offensiva che c'è anche e direi soprattutto un grande contributo in fase di non possesso di palla, che è il motivo per il quale poi la Samp subisce pochi gol, è una delle squadre più forti del campionato. Sì, secondo me c'entra anche Mihajlovic, perché se uno dei tre non tornasse probabilmente vivrebbe un brutto quarto d'ora. Oh, poi c'è Alberto da Pescara che ha scritto al 349-238-6666: sto andando allo stadium a 650 km per la Juve, chiamatemi che ve le canto. Chiamaci tu Alberto, 800-24-0024, perché viviamo anche questo martedì un po' così, sospesi tra la voglia di gettare il cuore oltre l'ostacolo, cercare l'impresa, rischiare, ma provare a costruirci un futuro migliore in Champions, oppure speculare su quel pareggino che regalerebbe alla Juventus la certezza della qualificazione agli ottavi di finale, ma anche la certezza di un sorteggio da incubo, perché l'urna che si sta disegnando per Nyon e per la fase di eliminazione è un'urna che punirà i secondi in classifica. Quindi prendere o lasciare, cosa facciamo? Lascia o raddoppia? Tutti convocati. Mi aspetto la Juventus più pericolosa, la Juventus più forte, una squadra che ha bisogno di qualificare per la sua storia, per la sua gerarchia e per il suo talento che ha nei suoi calciatori. Allora non mi aspetto meno, e per quello dobbiamo prima capire che tipo di partita troveremo, per dopo cercare di fare una buona gara. Noi pensiamo soltanto al nostro e a cercare di far bene e riuscire a fare una bella partita domani, che salgano le cose come noi vogliamo. Sono diversi, penso che essendo simili sono diversi. Morata corre più sullo spazio, più potente sul lungo, sul largo, e Llorente più statico sulla zona, ha più esperienza, però tutti e due grandi campioni, veramente sono contento per il mister Allegri, perché qualsiasi che scelga è un grandissimo giocatore. Sì, mister Allegri che è stato anche l'ultimo tecnico italiano a battere una squadra spagnola nelle coppe europee, primavera 2013, 2-0 al Barcellona, poi al ritorno 4-0 per il Barça, Milan eliminato, da lì una striscia di 10 partite senza riuscire a vincere una volta. Questa sera serve la vittoria con due gol di scarto alla Juventus per quel primo posto nel girone che aprirebbe a una Champions diversa. Saluto Alessio Tacchinardi, ciao Alessio. Ciao, un saluto a tutti, buon pomeriggio. E il Ciolo subito, no, che mette il carico, la Juve si deve giocare tutto, quindi mette ulteriori pressioni a una partita delicatissima come stasera. Ma secondo me ha ragione, cioè una grande squadra, una grande società come la Juventus, io credo non si possa accontentare di quel pareggino lì, piccolo cabotaggio, poi magari sorteggio difficilissimo, e poi magari fuori a marzo. No, ma sicuramente, però la cosa che, se andiamo a analizzare le prove di Simeone, sono cose molto delicate. Quando dice vedremo che partita andremo ad affrontare, non è che si immagina ancora una Juve a 200 all'ora oppure una Juve titubante, perché paradossalmente è terribilmente difficile questa partita. Non sai se partire forte, partire piano, attaccare in tanti, attaccare in pochi, sai, puoi arrivare ad andare dall'inferno al paradiso. Quindi lui secondo me ha messo ulteriore pressione a questa squadra, e sarà una partita terribilmente difficile, perché penso che l'Atletico sia una delle squadre più brutte in questo momento da affrontare. Tu come te l'aspetti la Juve, Pier? Ma io me l'aspetto abbastanza prudente, devo dire la verità, all'inizio. Io credo che certamente il biscotto è una cosa che non piace, non si dice, non si fa, ed è veramente, ci vuole una mentalità proprio piccola piccola per pensare al biscotto. Però io non credo che per vari motivi la Juve partirà fortissimo, non penso che proverà così a orizzontarsi, a capire che tipo di situazione e che tipo di avversario avrà di fronte. Insomma, è chiaro che qui il pareggio è un risultato perfetto per l'Atletico, ed è un risultato che però non ce l'ha secondo me come mentalità questo tipo di giochetti. Noi ci ricordiamo il biscotto di Svezia, Danimarca e in Portogallo, ma per esempio nell'Europeo, quello dove siamo andati in finale, in Polonia e Ucraina, la Spagna all'ultima giornata ci fece il favore di battere la Croazia e abbiamo passato il turno quando potevamo pensare male, no? E poi la Spagna ci ha ritrovato in finale, quindi io non credo che faccia parte della loro mentalità. E comunque io penso che la Juve almeno il tentativo di capire, di provare a giocarsela, lo farà. Non credo però che partirà fortissima, ecco, non penso che sarà una partenza particolarmente veloce. Sì, Alessio, spagnoli che sono allergici ai biscotti, anche se evidentemente è tutta convenienza della Juventus, eventualmente quella di cercare di fare partita. Qualche amico scrive: secondo me l'obiettivo è passare il turno, arrivano i soldi e poi speriamo in un po' di fortuna, perché ci sono anche il Porto, c'è il Bayer Leverkusen. Questo ragionamento ci sta, questo ragionamento ci sta. Adesso sinceramente... insomma, mi sembra questa partita qui vale 12 milioni, a prescindere. Poi è chiaro che se arrivi primo hai molte più possibilità di trovare un sorteggio morbido, altrimenti ti rimane il Bayer o il Monaco, vedremo, ti rimane forse il Porto, cioè, di partite giocabili te ne rimangono due o tre. Però, insomma, qui è molto semplice, piuttosto che niente, com'è che si sentivo milanesi la Sì, anche se, Alessio, io faccio fatica ad abituarmi a una Juve normalizzata, cioè una Juve che al 9 di dicembre debba decidere che piuttosto che rischiare è meglio consegnarsi a quel sorteggio lì, Real Madrid, Bayern Monaco, Chelsea, molto probabilmente il Barcellona, il Borussia Dortmund, cioè sorteggio difficile. Ma guarda, la Juve nell'ultima settimana non sta benissimo fisicamente, ha dimostrato nel derby di essere un po' sulle gambe dopo una settimana terribile a livello sia di testa che fisico, dopo aver giocato e spinto tanto con la Lazio e col Malmo. Col derby non ha fatto una buona partita proprio a livello di intensità e di fisicità. La stessa cosa non ha fatto con la Fiorentina, quindi dipende anche come stanno i giocatori, questo lo sa Allegri, certo. Lo sanno, insomma, è proprio la sensazione di andare a trovare una squadra che ovviamente in questo momento è terribilmente ostica, terribilmente difficile da incontrare, con queste due linee difese centrocampo molto strette, quindi mi immagino il rombo della Juve, tutto accentrato nel mezzo, in verticale, che difficoltà ci saranno. Se il Vidal, quel Vidal che si sta vedendo nell'ultimo mese, non va bene, devono allargare di più, devono dare molta più ampiezza al gioco, se no se vai dentro in verticale facendo giocare Llorente che è molto statico, secondo me è una manna per la difesa al centrocampo dell'Atletico. Quindi dipende anche la Juve come sta, perché sai, dire andiamo a giocarcela, andiamo all'arrembaggio con una squadra che è sulle gambe, è come l'ultima settimana, è molto delicata. Quindi è una situazione veramente, una linea sottile veramente tra... può essere un fracasso e ci auguriamo tutti. Fracasso alla spagnola, fracasso nel senso di disastro. Però il 2-0, Ale, il problema è anche che devi vincere il 2-0. Non è facile. Problema è proprio, meno, io mi medesimo quando giocavo e ci sono stati dei finali di ultima partita di Champions League drammatici, sempre parlando però sportivamente. È terribilmente difficile partire e dire vediamo cosa fa l'Atletico, cioè non è... magari gli ultimi 10 minuti puoi valutare e dire ok, ma così veramente c'è proprio la sensazione che, come dicevi te prima, loro ti possono sbattere fuori, perché magari non ti possono sbattere fuori, magari te li trovi poi in semifinale o nei quarti, diventa un problema. Quindi secondo me se loro hanno la possibilità ti buttano fuori, quindi la Juve deve prepararla come una finale. Poi sicuramente gli ultimi 10 minuti, gli ultimi 15 minuti valutare un po'. Detto questo, non deve essere una Juve come nel derby, se gioca a 4, De Stein da una parte, Paduin dall'altra, tutti troppo alti sopra linea della palla, perché loro nelle ripartenze sono micidiali. Sì, sicuramente meglio della Fiorentina spuntata di questo periodo, Fiorentina che però ha qualche problemino nelle ripartenze con Cuadrado e Gomez, anche venerdì sera l'ha creato questa Juventus. Ti convince la scelta di Llorente al posto di Morata come partner di Tevez? Detto che io credo questa sera, a maggior ragione, la differenza dovrà farla proprio Tevez davanti, cioè dovrà caricarsi anche dal punto di vista caratteriale la squadra sulle spalle. Questa squadra ha proprio bisogno di Tevez al massimo delle sue potenzialità. perché proprio tecnicamente è lui con Pogba gli unici in questo momento proprio come caratteristiche brave a dare imprevedibilità alla giocata. Gli altri sono tutti giocatori importanti, giocatori fisici, giocatori che devono stare bene al 100%. Questi due qua in questo momento qua sono quelli che hanno dei jolly nel marzo, quindi sicuramente Tevez è fondamentale, ma secondo me tatticamente la Juve deve cambiare qualcosa, deve dare molta più ampiezza, perché secondo me se vai dentro lì nelle loro due linee sono veramente bravi. Luis Simeone per me ha preso tanto dall'Italia, ha un'idea spagnola ma ha preso molto dall'Italia a livello difensivo, quindi Tevez fondamentale, però Tevez che si allarga un po', perché lì dentro stasera ci sarà veramente un ingorgo terrificante. Sì, Pier, ci sarà grande traffico. Penso che Llorente che sia nettamente più statico, insomma, rispetto a Morata. Cioè Morata puoi anche vederla con una mossa, a me sembra che Morata sia meglio di Llorente in questo momento, però può essere anche una mossa per provare a sbloccarla magari con l'ultima mezz'ora, nel senso che mi sembra che Morata sia un giocatore che riesce anche abbastanza rapidamente a entrare in partita quando viene chiamato in causa, per esempio nel secondo tempo con una mezz'ora a disposizione, magari con gli avversari un po' più stanchi, e quindi questa possa essere anche una chiave tattica interessante. Sì, io ho l'impressione, Pier, che Llorente sia anche il giocatore che fa giocare meglio Tevez, cioè lo lascia più libero anche di fare quei ruoli in più al di fuori dell'area di rigore, che ne esaltano anche la capacità di impatto su una partita. Beh, volevo sentire Alessio su questo. Secondo me è un po' una leggenda metropolitana questa, nel senso che chiaramente Llorente è un giocatore più tradizionale e forse anche un po' più statico, insomma, no, nel senso che è un giocatore che sai di più dove sta, che va a occupare uno spazio più tradizionale rispetto a Morata, che comunque ha la tendenza, l'esperanza e secondo me anche la condizione fisica di un giocatore che vuole spaziare di più, perché secondo me sente di poterlo fare di più, perché sente di avere più gamba rispetto a Llorente. Sicuramente Llorente e Tevez hanno degli equilibri e degli automatismi forse più collaudati. Alessio. Sì, e soprattutto in questo momento qua dove parlo da centrocampista, comunque un referente là davanti lo devi avere, Llorente, che però, ripeto, non sta benissimo, perché nell'ultimo mese, sì, con l'esperienza, con la malizia, ma non è lo Llorente dell'anno scorso, molto più legnoso nel muoversi, molto più macchinoso, però oggi la Juve là davanti deve avere uno referente là davanti, perché se vi dà il giro un po' e Tevez si sposta a destra, a sinistra, comunque un referente là davanti. Sicuramente Llorente però che deve essere molto più mobile, anche se non ha le sue caratteristiche, attaccare un po' più il campo, perché anche col Malmo tante volte si staccava troppo dalla loro linea difensiva. Quindi sicuramente oggi ci vuole Llorente là davanti anche per i calci piazzati, perché loro, attenzione, sono molto bravi sui calci piazzati, hanno fatto anche parecchi gol, quindi sicuramente dare una mano. Ecco perché non capisco, però oggi Allegri vuole andare avanti così, possono giocare insieme. Llorente e Morata hanno tutto, con magari Tevez dietro a fare la mezza punta, possono giocare insieme, perché metti nell'unico titolare un altro giocatore imprevedibile, come diceva Pier. Morata è un giocatore che gli piace spaziare e c'è i colpi anche nell'uno contro uno, però oggi Allegri, come ha dimostrato nel Milan, gli piace più la mezza punta, più dinamica, più centrocampista. Però sicuramente Morata è un giocatore che deve, è pronto per esplodere a tutte le caratteristiche, però principalmente oggi una prima punta va davanti, ci vuole Llorente. Ci vuole. Io penso che la controindicazione su questa, che è chiaramente un'ipotesi di scuola interessante, no? Quella di Tevez con Llorente e Morata contemporaneamente, sia al di là dell'equilibrio, chiaramente magari questa cosa te la può permettere soprattutto con squadre che si chiudono un po' più deboli, e anche il centrocampo, perché a quel punto tu perdi il posto per un giocatore a centrocampo dove la Juve spesso fa la differenza. No Pier, però se noi guardiamo nell'ultimo mese il Real Madrid è una cosa incredibile. Vabbè, cioè, sì, con altra qualità però adesso. Insomma, il centrocampo è che giochi nel centrocampo del Real tutti giocatori offensivi. Ora noi in Italia dobbiamo dire che Tevez però fa poco la fase difensiva, ed è vero, sono d'accordo per gli equilibri, è un po' la nostra mentalità nel voler rischiare. Poi vediamo Ancelotti, che in Italia era un martello sulla fase difensiva, va a giocare in Champions League da tutte le parti con due difensori centrali e 9 sopra linea della palla. Quindi sposta Di Maria da intermedio del centrocampo, da centrocampista. Bravissimo. Centrale, e riesce a farglielo fare, che forse è stata dal punto di vista tattico la chiave della Champions vinta l'anno scorso. Sì, non per niente gliel'hanno venduto, con grande specie di Carletto. Vi devo fermare perché siamo alla borsa, grazie Alessio. Ciao, un saluto a tutti, a presto. Grazie ad Alessio Tacchinardi. Oh, poi a me fa arrabbiare chi scrive, come un amico al 349-238-6666, la Juve non vincerà la Coppa, quindi deve dare priorità al campionato, la Coppa serve solo per fare cassa. Ditemi voi se la Juventus, cioè il club numero uno in Italia in questo momento, può pensare alla Champions come una sorta di bancomat per fare cassa. Convocati. Sì, c'è anche chi scrive: tutte le volte che si è puntato al pareggio poi si è perso, vedi Istanbul, Irene, vero anche questo, però ripeto, io rinuncio all'idea che la Juventus debba pensare alla Champions League come a un bancomat, perché non ci sono possibilità di vincere e quindi bisogna concentrarsi e dare priorità al campionato. 800 24 00 24, se la pensate diversamente chiamate, eh? Paolo da Roma, Paolo. Sì, buongiorno, buongiorno. Prego. Volevo fare una domanda iniziale per Luigi. Lui che ha girato tanti stadi d'Europa, come lo classifica la Juventus Stadium? Poi faccio l'altra domanda e dopo sì, mi rispondete. Com'è lo Juventus Stadium, Pier? Beh, bello, è molto bello, è in linea con i migliori stadi. Non è particolarmente grande, ovviamente. Quindi un po' piccolino. Ci sono degli stadi che riescono ad avere quel livello di modernità e di stare attaccati al campo con 20, 30, 40 mila spettatori in più, però diciamo che dal punto di vista della modernità e dal punto di vista della bellezza dell'atmosfera è uno stadio perfetto. Abbiamo anche parlato per esempio recentemente in occasione del derby. Per me è uno stadio che dà dei punti, io non ho dubbi, la Juve è forte, è fortissima, ma credo che quello stadio lì un effetto ce l'abbia. È chiaro che non è che ha cominciato a vincere i campionati perché c'è questa coincidenza, no? Che ha cominciato a vincere quando è andata alla Juventus Stadium. Non credo che sia un fattore esoterico, però credo che una funzione ci sia sicuramente. E lo vedi per esempio nel derby, come abbiamo sottolineato quando c'è stato contro il Torino, comunque alla fine la Juve gioca in casa. Perché con tutto lo stadio, con tutti gli abbonati, con quel piccolo spicchio che è uguale a quello di qualsiasi altra partita, di 2000 e passa posti, non di più, da riempire, di fatto anche in quella partita lì la Juve gioca esattamente una sfida che non è in campo neutro, cosa che non succede nei derby per esempio di Roma, di Genova o di Milano. Quindi sì, da punti in Italia, Pier, immagino che quelli dell'Atletico Madrid non tremeranno questa sera, abituati a altri palcoscenici, al Bernabeu, al Camp Nou di Barcellona. È la qualità che fa la differenza, questo non ci sono dubbi. Poi insomma, chi è abituato a giocare i derby in casa del Real Madrid e li ha vinti spesso in questi anni i derby con il Real Madrid anche al Bernabeu, difficilmente si spaventa Torino. Però insomma, tornando allo Juventus Stadium, è a un livello molto alto, molto alto. L'unica pecca, se vogliamo, è che è uno stadio comunque da 40.000 e quindi è una dimensione, diciamo, rispetto a Old Trafford, rispetto ad altri stadi, all'Allianz Arena per dirti, all'Emirates, è uno stadio di una dimensione oggettivamente, quantitativamente inferiore. Sì, potevano farlo anche un po' più grande, ma il tema è aperto perché ad esempio in questi mesi Liverpool allargherà Anfield Road, il Chelsea vorrebbe cambiare Stamford, anche perché si sono resi conto che per coltivare certe ambizioni economiche poi sul campo c'è bisogno di un'arena un po' più grande. Fammi salutare un altro che tutti questi stadi li conosce, Riccardo Trevisani. Ciao Ricky. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Che sensazioni? Come stai, Trevisani? Molto bene? tutto bene. Dove sei? Nella capitale oppure qui a Milano? Dove sei? Rientrato adesso dalla ridente capitale, ma c'è il sole anche a Milano, quindi una grande festa. Sì, oggi, grande giornata. Grazie. Sì, oggi è un'eccezione assoluta. Che sensazioni hai per stasera, Ricky? Ma io penso onestamente che la Juve possa serenamente portare a casa la qualificazione, perché volendo la partita si può giocare sui binari dell'andata. All'andata non c'è stata superiorità dell'Atletico Madrid, è stata una gara abbastanza noiosa nella quale le squadre si sono annullate e poi alla fine per sbaglio l'Atletico ha fatto gol. Allora, lo sbaglio dell'andata può succedere anche a vantaggio della Juve al ritorno e può vincere. Ora due gol di scarto mi sembrano tanti, mi sembra difficile che Simeone venga qui a Torino con un vantaggio di due gol e si faccia superare all'ultima giornata, mi sembra francamente molto complicato, ma che la Juve passi mi sembra invece abbastanza più semplice perché sarei guadagnato sul campo nelle altre partite. In generale hai l'impressione che questa tre giorni di coppe, che potrebbe consegnarci un'Italia con un inatteso end plan di qualificate 6 su 6, unica, nasconda delle trappole, e io per trappola intendo qualcosa di peggio magari di una retrocessione dalla Champions all'Europa League, penso anche alla Roma. Ma onestamente le squadre sono tutte più o meno artefici del proprio destino. La Roma stessa, che era capitata in un girone infernale anche con parecchia sfortuna, perché al momento in cui prese quel girone c'erano tre gironi possibili, il più difficile era proprio quello con Bayern Monaco e Manchester City, e Roma ci si era infilata. Io credo che possa battere questo Manchester City. Io ho fatto Manchester City-Bayern Monaco due settimane fa, e il Bayern Monaco in 10 li ha presi a pallate, poi due errori individuali hanno portato il City a vincere la partita, ma in campo c'era Agüero, che domani non ci sarà. Pesa quella assenza, no? Insomma, pesa abbastanza. Lui e Yaya Touré sono i due migliori giocatori che ha quella squadra, e non ci sono nessuno dei due. Poi, per carità, forse recupera Silva, è tornato Dzeko e bla bla bla, ma la Roma ha anche una rosa molto molto importante. Se Garcia magari stavolta indovina la formazione, meglio. Sì, io Pier non amo particolarmente la retorica del tutte finali da giocare, però è evidente, oggi questa frase l'ha usata anche Garcia, ha detto noi dovevamo essere già fuori a questo punto, siamo qui, ce lo siamo meritati. Quella di domani è una finale che giochiamo in casa. Ecco, credo che Garcia questa volta abbia perfettamente ragione, e forse dal punto di vista psicologico sta facendo tesoro anche degli errori del passato, cioè di quando ha presentato ad esempio la partita con il Bayern dicendo questa è una Roma che può essere competitiva ai massimi livelli anche in Europa. Sì, ma sai, le dichiarazioni della conferenza stampa onestamente pesano poco. Io credo che contino i fatti. I fatti dicono che la Roma ha affrontato la partita col Sassuolo, secondo me sbagliando, forse poi sbagliando, facendo un errore abbastanza esagerato. Dove sei, Pier? Sono fermo. Eccoti, fermo. Ti abbiamo recuperato, prego. Giocando una partita condizionata, secondo me, dalle e credo che da un certo punto di vista, per quelli che sono gli obiettivi della stagione, Roma Sassuolo sia un'occasione persa grandiosa, clamorosa, che secondo me è un errore di Garcia, lo dico proprio sinceramente, insomma, secondo me doveva fare altre scelte. Però come rovescio della medaglia di tutto questo c'è il fatto che si presenta questa partita col City con la migliore formazione possibile, con tanti giocatori importanti riposati e con il vantaggio oggettivo, secondo me, che Agüero e Yaya Touré non sono tanti. Tanto il telefono di Pardo fa dei rumori inediti. Adesso il telefono fasullo come Pardo. Sono io. Adesso proviamo a recuperare la linea. No, allora è qualche hacker che sta inserendo. Ma sono qua fermo. Come fai a non sentirmi? No, si sentono sciacquoni. Si sente di tutto, Pier. Ma non c'è nessuno sciacquone. Sono fermo, seduto. Non c'è niente. Non ci sono neanche i lavori. Dobbiamo mettere un geolocalizzatore per vedere dov'è Pierluigi. Sono fermo, seduto in poltrona a casa, quindi proprio sono veramente un'immagine che riconcilia proprio con la terza, la quarta e la quinta età. Detto questo, secondo me, sinceramente, insomma, è chiaramente una finale. La Roma ci arriva dal punto di vista delle energie con le migliori condizioni possibili contro una squadra che è in un grande momento, perché il City si è veramente sboccata nelle ultime partite, con quel finale contro il Bayern e anche in campionato ha trovato una grande continuità, ha riaperto la Premier League, però secondo me Agüero e Yaya Touré non si regalano, cioè l'incidenza di quei due è mostruosa. Comunque peso specifico della partita di domani sera assolutamente elevato, Ricky, per tanti motivi, compreso quello ambientale, compreso quello psicologico. Probabilmente Garcia avrebbe delle difficoltà a gestire un'eliminazione, quindi quella di domani anche per questo motivo è come una finale per la Roma. Sì, è vero, perché è sentita anche in questo modo dall'ambiente, dalla squadra, dall'allenatore, dalla società, però dico una cosa impopolare, alla Roma farebbe meglio di uscire da questa coppa, non andare avanti, nel senso che per il campionato lo sta dimostrando giornata dopo giornata, ogni volta che gioca il sabato in anticipo fa partite brutte, ha giocato male a Empoli, ha giocato male col Verona, ha giocato male a Genova con la Samp, ha giocato male col Sassuolo, ogni volta che c'è la Champions la Roma perde energie mentali, perché secondo me ha pochi giocatori abituati a quel tipo di discorso di giocare ogni tre giorni e ha poco l'idea del fatto che in campionato la Roma è una protagonista assoluta, in Champions League è una comparsa, cioè la Roma non può giocare contro Bayern Monaco, Barcellona, Real Madrid e Chelsea, quindi non può mai vincere la Champions League, quindi il concetto è il campionato lo può fare la protagonista, la Champions no, a più senso vincere col Sassuolo e pareggiare col City che pareggiare col Sassuolo e vincere col City per la stagione della Roma. Può fare da protagonista anche l'Europa League volendo, assolutamente, con quel dettaglio dei 12 milioni di euro che secondo me diciamo non fanno particolarmente schifo, e probabilmente se verranno investiti per fare un ulteriore salto di qualità sul mercato a gennaio possono rappresentare, cioè può essere anche un investimento. Diciamo che il pareggio col Sassuolo, io sono d'accordissimo con Riccardo, io ribadisco, secondo me Roma-Sassuolo era la finale, soprattutto dopo il risultato della Fiorentina, cioè era l'occasione nella quale la Roma doveva dimostrare con una partita completamente diversa che quest'anno è diverso il rapporto di forza con la Juve, e invece il dubbio dopo questa partita ci rimane, al di là della reazione d'orgoglio 10 contro 11, delle polemiche arbitrali, comunque è chiaro che la squadra ha fatto una buona ultima mezz'ora, ma certamente non ha, alla fine della giornata è tornata a casa delusa, e chi ha festeggiato il pareggio secondo me ha festeggiato veramente un brodino. Quindi l'unica cosa può essere questo investimento, che certamente può nascere da una qualificazione negli ottavi, che significa 12 milioni. Sì, tengo ancora un minuto Ricky Trevisani se puoi, perché poi mi piacerebbe parlare anche dell'altra finale di questa sera, che è quella che vede impegnato Liverpool. Prima però c'è il traffico. Usciamo del quarto urna e siamo nel girone più difficile di tutta la Champions 2014-2015. È anche normale, che era una speranza di poter giocarcela sull'ultima partita, come abbiamo la possibilità. Convocati. You saw me standing alone. No, sapete il mio avviso, tutte le partite sono importanti, quella è particolare, come l'ha detto Gervinho, è particolare perché per noi è una finale. Normalmente dovremmo essere fuori gioco alla sesta partita, perché noi siamo usciti dalla quarta urna, loro sono campioni d'Inghilterra e finalmente abbiamo la qualità, perché se siamo qua e anche grazie un po' a noi, di giocare una finale davanti al nostro pubblico. Sarà un olimpico di fuoco e abbiamo questa opportunità. Allora, come l'ho detto prima del CSKA Mosca, che era la prima giornata in casa, ce la dobbiamo giocare questa gara, e dobbiamo sfruttare ogni momento. È vero che sarà eccezionale se vinciamo, e noi puntiamo all'Expo, è questo che faremo domani. Non ho la scelta, perché se avevo 11 difensori forse giocherò con 11 difensori, ma ho solo 5 o 6 a disposizione. Scherzo a parte, noi non abbiamo la scelta domani, c'è solo da giocare per vincere e per non altre cose, perché saremo maestri del nostro destino solo vincendo, perché non sappiamo che può succedere tra il Bayern Monaco e il CSKA Mosca, perché il Bayern Monaco è già qualificato, finalmente non ha vinto la quinta partita, può perdere anche la sesta, questo può succedere. Allora non abbiamo solo, c'è solo un scenario per noi, è attaccare per segnare un gol di più che il Manchester e vincere questa partita, non vedo altre cose da fare. Sì, voi ci credete al Bayern che perde in casa con il CSKA Mosca la seconda partita consecutiva? 8-0-0-24-0-0-24, Riccardo Trevisani, Pierluigi Pardo, Ricky? Fatico a crederci, anche perché ho visto quella squadra di alieni in 10 dominare il Manchester City, quindi faccio fatica a immaginarli in 11 faticare col CSKA. Tu che eri a Manchester, perché qualcuno anche ieri sera di Cuori dice che ha pensato al biscotto, tu a Manchester eri presente... Guardate, vi posso raccontare tanto di quella due giorni, cominciare dal discorso che Guardiola ha fatto alla squadra, uno dei più belli, citazione di chi era presente, di suoi 6 anni da allenatore per caricare i giocatori. La squadra ha dominato e giocato bene, poi Xabi Alonso che era stravolto, perché comunque in 10 fai fatica, per quanto lo possa fare bene il lavoro, ma fatica. a trovarti lucido fino alla fine. Ha sbagliato un passaggio, Guerra è andato in porta, il Manchester si è caricato e poi ha sbagliato anche Boateng, ma Boateng e Xabi Alonso sono stati due migliori in campo. Poi hanno fatto gli errori perché hanno giocato 75 più recupero in 10 contro 11 a Manchester contro il Manchester City. Io proprio tolgo, io sono un sospettoso, ma tolgo assolutamente qualche sospetto da quella partita, anche perché Guardiola voleva vincere tutte e sei per fare un record che a Monaco non aveva mai fatto nessuno, quindi proprio non c'è alcun dubbio, e la prova lo testimonia, altrimenti sull'1 a 0 dopo l'espulsione di penalti a Certo. questo è sì, il grande elemento, no? Non aspettano gli ultimi 5 minuti per suicidarsi in un modo così evidente, così plateale. Detto che fa bene Garcia a dire non vado a cercare lo 0 a 0 perché significherebbe garantirsi una notte sul filo, perché poi basterebbe un gol per complicare maledettamente tutto. C'è Gaetano da Cosenza che ha chiamato, gli chiedo ancora un minuto di pazienza perché con Riccardo Trevisani volevo parlare di Liverpool-Basilea, che è l'altra finale di questa serata, e non c'è Balotelli, ma questo significa anche che Balotelli non era il problema del Liverpool. No, non è stato proprio un fattore fino a questo momento, è come se non ci fosse stato, e quando c'è stato non è che abbia fatto proprio particolarmente bene. Io credo che in questo momento, tra l'altro, Lambert ha fatto anche bene, ma in assoluto il Liverpool abbia una marea di problemi, e però sono fiducioso che di solito alla sesta giornata, quando c'è da fare il miracolo, il Liverpool riesce a farlo. Ricordo un Liverpool Olympiacos di qualche anno fa con gol di Rivaldo e poi tre gol nel secondo tempo del Liverpool. Io penso che il Liverpool ce la possa fare, ma resta una squadra peggiore della Roma, del Manchester City, proprio di terza fascia in Europa quest'anno. 1-0 all'80esimo, e credo che quello scivolone di Gerrard dell'anno scorso contro il Chelsea a Liverpool se lo ricorderanno per lungo tempo, perché la squadra che l'anno scorso è stata in grado di vincere il campionato ormai è spazzata via, e faccio fatica a immaginare che possa tornare rapidamente in corsa per lottare per lo scudetto, che manca da troppo tempo. Sì, treno che è passato, che difficilmente tornerà. A proposito di italiani, segnalato in panchina anche questa sera Immobile, Borussia Dortmund, che ha un passo dal primo posto, potrebbe anche essere, in caso di seconda posizione di Juventus e di Roma, un sorteggio non impossibile a febbraio, il Borussia Dortmund che abbiamo visto fino qui, Riccardo? Sì, vi dico la verità, dal punto di vista dell'organico in questo momento, anche della fiducia, sicuramente. Ricordiamo sempre che in Bundesliga fanno quasi due campionati, quasi un'apertura e una clausura, e spesso le squadre del secondo girone sono molto meglio di quelle del primo, o molto peggio, comunque molto differenti. Nel caso del Borussia peggio non può fare, può solo fare meglio. E di quel famoso incontro con Guardiola di Manchester vi riporto due cose. Una, per smentire Pierre, che ha detto le conferenze stampa contano poco, ma Guardiola, tra le dette e non detto, mi disse dalla conferenza avevo già capito che il Bayern avrebbe vinto. E l'altra è che ha detto: io agli ottavi, ai quarti o quando sarà, non voglio incontrare Borussia Dortmund. Questo è un dixit che mi è rimasto impresso, perché vedendo il Borussia di quest'anno, insomma, francamente l'avrei preso volentieri anch'io, come stavi dicendo tu, però Guardiola lo vede tutte le settimane e dicevo: quelli non ci voglio giocare. E il Bayern Monaco è una squadra comunque molto superiore al Borussia, quindi c'è da farci una riflessione. Grazie Ricky. Ciao. Grazie a voi ragazzi, sempre un piacere. Ciao Pierre, un abbraccio. Ciao. Grazie Riccardo Trevisani. 800 24 00 24, Gaetano da Cosenza. Sì, buonasera. Eccoci. E complimenti per la trasmissione. Io volevo dire soltanto due cose: sia che la partita di stasera della Juventus non è paragonabile a quella di Istanbul dell'anno scorso, sia perché la Juve gioca in casa, e sia perché l'Atletico, a differenza del Galatasaray, è già qualificato. E poi volevo chiedere chi secondo voi tra Morata e Llorente, cioè, dovrebbe giocare dall'inizio, e quale sarà il duello poi decisivo della partita. Ma sì, un po' di discorso facevamo prima. Morata secondo me sta meglio, e questo suo star meglio lo porta a essere esuberante. Magari paradossalmente Llorente è un giocatore, ripeto, con dei punti di riferimento più tradizionali per il gioco di Tevez. Io penso che lo schema che verrà adottato sarà quello classico: prima ora Llorente, ultima mezz'ora Morata, e ci può stare, perché Morata, con la sua energia contro degli avversari, dei difensori più stanchi, una partita che si è già in qualche modo spostata da una parte o dall'altra, insomma, può fare degli strappi secondo me nell'ultima mezz'ora di livello molto importante. Sul resto, ripeto, tutto quello che abbiamo detto dall'inizio, è chiaro che sarebbe fantastico vincere 2-0, il primo posto è qualcosa di raggiungibile, anche se di molto molto complicato. Io credo che alla fine, insomma, la Juve la porterà a casa, penso che si qualificherà, penso che alla fine uscirà questo pareggio. Non credo e non penso che sarà un biscotto, ma penso che alla fine, un po' per l'equilibrio che c'è in campo, un po' per le situazioni del girone, questo pareggio arriverà. Sì, chi non si accontenta del pareggio, così chiudiamo la pagina di oggi, è Carletto Ancelotti, gioca in casa con il Ludogorets. Carissimo Pierre, se arriva la vittoria è il record assoluto per una squadra spagnola, 19 successi consecutivi, meglio del Barcellona di Rijkaard del 2006. Sta facendo delle cose incredibili, e pensare che fino a qualche tempo fa c'è stata, no, qualche mugugno, e che comunque, insomma, fino a poche settimane fa, come ci raccontava Ricci, nonostante la decima da parte di Florentino Perez ci fosse un atteggiamento così un po' tiepido nei confronti di questo allenatore leggendario, perché bisogna usare gli aggettivi giusti, leggendario, qui siamo nella leggenda, beh, questo è veramente incredibile. Ma la squadra è fortissima, come diciamo prima anche con Alessio, la vera forza del Real Madrid, e il Real Madrid non è che gli anni prima con Mourinho fosse una squadra scarsa. Ancelotti ha recuperato oltre a un rapporto umano sul quale è il numero uno, ma ha fatto un grande investimento sulla qualità tattica e tecnica di questa squadra, ha portato dei giocatori molto offensivi a giocare a centrocampo e a dare una mano anche in fase di non possesso, al di là del fatto che il non possesso... Sai cosa ha fatto Pierre? E poi ti saluto perché siamo in GR. Ha fatto quello che ha fatto con Pirlo, cioè ha reinventato un giocatore. Ciao Pierre, a domani. E pronostici. Notte ad alta tensione per la Juve di Allegri, che contro l'Atletico cerca il pass per gli ottavi. Ai bianconeri basta il pari, ma vincendo sarebbero primi. Vediamo dunque assieme le quote SNAI per questa partita. L'1, la vittoria della Juve, è quotata a 2,15, l'X è a 3, il 2 invece, con il successo dell'Atletico, è quotato 3,75, gol quotato 2, no gol a 1,73. Juve con l'orecchio teso anche ad Atene, dove si gioca Olympiacos Malmo. L'1, il successo dei greci, è quotato 1,38, l'X è a 4,75, il 2 invece, con il successo svedese, è quotato 8. Chiede strada al Basilea Liverpool, che gioca ad Anfield alle 20,45. Ai Reds servono i 3 punti per sperare nel passaggio del turno. L'1, la vittoria del Liverpool, è quotata 1,70, l'X è a 3,80, il 2 invece è quotato 4,75. Alta tensione anche tra Monaco e Zenit, chi perde va a casa. L'1 è quotato 2,60, l'X è a 3,20, il 2 invece, con il successo dello Zenit, è quotato 2,70. Questa era l'ultima delle quote SNAI di oggi. Noi ci risentiamo domani. Spot per noi. Tutti convocati. E a proposito di incertezza e di contraddittorietà, io non, come tu sai, non mando tweet, nulla. Ah, no. Ma oggi ho mandato un SMS a Walter Mazzarri, così concepito. Avranno capito che non dipendeva da lei, in amicizia. Io vedo il calcio come uno sport in cui il fatto di attaccare non debba essere premiato oltremodo. Allora, in entrambi i casi, che si differiscono di poco, io arbitro non avrei dato il rigore, non avrei dato il rigore nel primo caso, che mi sembra incerto, e a questo punto non potevo assolutamente darlo al 44, quello che era, sì, al 94esimo, così come naturalmente mai avrei dato il rigore alla Roma in quell'altra partita. Che adesso la vediamo, adesso la vediamo, perché adesso siamo alla diretta. Meno male che... Oh, adesso lo vediamo, con questo rispondiamo ai tanti che ci hanno scritto: ma come? Non parlate della Roma che ha rubato la partita col Sassuolo? Oppure scrivono: leggetelo questo messaggio, la Roma è stata letteralmente tirata su dall'arbitro, e se permettete, i nostri arbitri sono molto faziosi e non dico altro. Franco da Brindisi. 349-238-6666. Se invece volete parlare di altro, 800-24-0024. Siamo qui fino alle 16, c'è la lunga vigilia della Juventus verso la sfida con l'Atletico Madrid di questa sera, e c'è Marco Bellinazzo che saluto. Ciao Marco. Ciao, buon pomeriggio. Perché tra le tante notizie di oggi riguardanti il mondo del calcio, è arrivato anche il punto di penalizzazione per il Parma. ci riferiamo all'IRPEF non pagata per la stagione 2013, penalizzazione attesa. Attesa, probabilmente ne arriveranno altre nelle prossime settimane, perché neanche gli stipendi e gran parte delle ritenute sono state versate per quanto riguarda i mesi successivi, e questo non fa che aggravare la situazione del club ancora di Tommaso Ghirardi, e soprattutto getta una luce molto chiara su quello che è accaduto l'anno scorso con la mancata concessione della licenza UEFA e quindi l'esclusione del Parma dalle competizioni europee. Sì, i russi non sono ancora arrivati, o chi per esso, perché non si è ancora capito, sì. C'è chi dice che possa esserci dietro un albanese, questo Taci che già aveva trattato il Parma. Ci sono una serie di figure più o meno strane che girano intorno al mondo del calcio italiano e che appaiono e scompaiono in maniera carsica dal panorama quando ci sono difficoltà economiche di alcuni club, ricompaiono e vogliono evidentemente acquistarli, amano talmente il calcio italiano che fanno di tutto, insomma, per diventare proprietari di qualche club. C'è da dire, sì, che ci sono una serie di aspetti, di nodi da sciogliere dal punto di vista anche legale su questa cordata russo-cipriota di cui si favoleggia, perché a parte questo avvocato Fabio Giordano che ci ha messo la faccia, come suol dirsi, non sappiamo ancora chi sono, e ci sono una serie di problemi. Per esempio c'è una situazione legata all'embargo, o all'embargo che potrebbe esserci anche sui capitali tra la Russia e l'Europa, viste le attività belliche in Ucraina. I fondi, se arrivassero da Cipro, dovrebbero essere sottoposti al vaglio delle istituzioni finanziarie, perché ci sono stati scandali legati ai fondi russi depositati nelle banche cipriote. Insomma, tutta una serie di questioni che immagino in queste ore Ghirardi e le controparti stanno cercando di risolvere, perché resta confermata la data del disclosure di questo affare, che è giovedì. E sono molto curioso di vedere quello che succederà. Sì, ci sono 48 ore per cercare di mettere tutti i tasselli a posto, poi dovrà andare a posto anche il tassello tecnico, perché evidentemente il Parma, a maggior ragione dopo questo punticino di penalizzazione, è sempre più ultimo in classifica. È evidente che un conto è restare in Serie A con gli introiti che porta, un conto è dover far ripartire un progetto dalla Serie B con tutto quello che contempla. L'abbiamo detto, purtroppo per il Parma le penalizzazioni non dovrebbero essere finite qui. Questo mi sembra quasi inevitabile, anche se arrivassero dei nuovi proprietari ricchissimi, un Abramovic, tanto per intenderci, con infinite disponibilità economiche, non potrebbe impedire che la giustizia sportiva faccia poi il suo corso. C'è da dire che la situazione del Parma, dal punto di vista economico, finanziario e non solo sportivo, è andata aggravandosi in questi mesi in maniera quasi inattesa. Il bilancio 2014... Sì, non ne abbiamo ancora traccia. Non c'è traccia, c'è una situazione per cui l'anno scorso c'era un rosso di 3 milioni, ma andando a leggere poi tra le righe c'era questa cessione del marchio, operazione forse abusata in Italia, anzi tolgo il forse, con una plusvalenza contabile di 31 milioni e quindi uno squilibrio di 40 milioni nel 2013. Nulla mi fa pensare che la situazione sia migliorata nel 2014, per cui il club potrebbe aver bruciato quasi 80 milioni in due anni, e capite che questo ha reso insostenibile procedere con la vecchia gestione. Sì, esempio di come ci si possa suicidare tra politiche di acquisti, vendite, tesseramenti gonfiati, sì, gonfiati nel senso numerico. Certo, il mistero è quello, perché diciamo così, il Parma ha abusato di compartecipazioni, prestiti e acquisti di giocatori ceduti poi con una politica di come dire, sovvenzione ad altri club italiani e anche stranieri come il Nova Gorica. Evidentemente non fruttuosa questa politica, perché non si è riuscito a vendere un solo giocatore importante a tirar fuori da queste operazioni che potesse garantire con una ricca e vera plusvalenza di rimettere i conti in equilibrio. Immagino che un giorno Ghirardi ci spiegherà cosa intendesse fare con questo modello di gestione, l'architettura di tutte queste operazioni. Poi c'è l'Inter col suo fair play finanziario e le sue difficoltà con l'UEFA. Io saluto Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell'Inter, uomo che il fair play l'ha scritto e che con l'UEFA ha collaborato a lungo per cercare di applicare queste nuove regole. Oggi su qualche giornale comincia a scriversi in maniera un po' più netta, franca e chiara che il piano di rientro di Tohir, il piano di rilancio, non avrebbe convinto gli ispettori dell'UEFA e quindi a febbraio si andrà incontro a una sanzione pesante e non a un patteggiamento leggero. Ha qualche notizia, Paolillo, in merito? No, notizie di Oetti sullo stato della pratica no, e anche se lo sapessi non potrei parlare. Nemmeno sotto tortura. Male, chiedo ancora nel club le sense in comiti dell'UEFA, quindi... Però possiamo fare delle considerazioni generiche. Allora, avete parlato di piano di rientro e come dice la parola piano di rientro, il piano di rientro deve essere un piano assolutamente credibile, assolutamente accettabile, come se fosse presentato da una società che è in sofferenza a una banca. Quindi deve essere credibile tutto quello che si dichiara, quindi la crescita del sito commerciale, e bisogna spiegare perché. La crescita del valore degli sponsor, la crescita dei ricavi da ticketing allo stadio, e quindi spiegare perché ci aspettiamo che aumentino gli spettatori, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, qual è la parte di ciò che è stato presentato da Tohir che non funziona? Insomma, se non c'è un programma di uno stadio nuovo, se non c'è un programma chiaro di aumento dei tifosi per una ragione plausibile, è difficile pensare che questo incremento possa esserci, soprattutto con la condizione della squadra che oggi come oggi va più verso l'eliminazione dalle coppe che non verso la conferma delle coppe. Marco, evidentemente gli ispettori dell'UEFA hanno dato un'occhiata anche a San Siro in queste settimane, l'hanno visto più vuoto che pieno perché siamo intorno alle 30.000 presenze, hanno dato un'occhiata alla classifica, hanno fatto due conti. Diciamo per esempio un dato, anzi non diciamolo, quello degli abbonamenti che l'Inter non ha reso noto, tanto per parlare di un aspetto che sembra secondario, ma chiaramente il dottor Paolillo diceva bene, qui bisogna entrare nella logica che non si va a scherzare a Nyon, alla UEFA, ma si va come se un'azienda in difficoltà andasse in banca a chiedere, come dire, un ulteriore fido. E quindi bisogna... Anche perché se gente è molto capace, molto brava, scusi se rompo, ma tutta gente che viene dalla società di revisione che fanno analizzare bene i bilanci e fanno dare credibilità o meno a quello che si dichiara. Sì, senza essere esperti, voglio dire, bastava guardare, come dire, i conti in peggioramento nel 2014 e le concrete prospettive che ha il club per rendersi conto che l'esame UEFA non sarebbe stato superato con tanta facilità. Ora io non so quali potranno essere effettivamente le sanzioni, ma non ho mai pensato che la UEFA si sarebbe poi limitata a un richiamo o a una piccola multa. Sì, ma le sanzioni economiche per il fair play finanziario non sono un boomerang quando poi vanno a colpire società che comunque hanno dei problemi di bilancio e in ogni caso è nell'interesse di tutti, dei club prima di tutto, ma anche del sistema intero, stanno facendo di tutto, hanno bisogno di scavare sul singolo euro per cercare di rimettere insieme dei conti che reggano. Paolillo. Però parliamoci chiaramente, se non ci fossero le sanzioni non ci sarebbe una sola motivazione per essere virtuosi e quindi rispettare le regole. Se si mettono le regole bisogna mettere anche le sanzioni per chi sgarra. Secondo, le sanzioni stanno anche a mettere a posto la differenza di competitività che ci può essere stata in precedenza quando una squadra, pur non avendo i conti in ordine, ha partecipato ai campionati, alle coppe con le altre società quando in teoria non avrebbe dovuto, se avesse rispettato. Quindi è un qualcosa che è dovuto alle società che questi conti li rispettano. Poi sì, l'effetto l'abbiamo visto anche col Manchester City recentemente. Il Manchester City che ha dovuto iscrivere una multa di 20 milioni andata in rosso nell'ultimo bilancio, pur avendo una crescita del fatturato importante. Il Paris Saint-Germain, che ci aveva abituato a campagne acquisti faraoniche, per esempio quest'estate ha dovuto rinunciare a Di Maria, che poi è finito allo United. Sì, fa tutta la differenza di questo mondo, mi pare di aver capito, poter inserire in quel dossier l'idea che si faccia uno stadio nuovo di proprietà, oppure come nel caso dell'Inter, non si è capito ancora bene quale sia il progetto. In ogni caso si va verso una permanenza San Siro, seppure rimodernato, però mi pare di capire, Paolillo, per l'UEFA questo faccia differenza. Questo fa differenza, sì, perché se si resta nella situazione attuale non è spiegabile l'incremento dei ricavi, e quindi non è spiegabile come il bilancio possa diventare virtuoso o molto virtuoso in futuro, quindi raggiungere quello che vi ho detto, il break even. Se ci sono progetti nuovi, commerciali, interessanti e credibili, poi magari ci sono, io non li conosco, ma qualunque fossero devono essere credibili e supportare quegli aumenti di ricavi che sono stati dichiarati. Sì, per fare un esempio concreto, Giovanni, cioè se dici aumenterò i ricavi da sponsorizzazione perché internazionalizzerò il brand, venderò in Indonesia decine di migliaia di casacche nerazzurre e poi ti ritrovi al 12° posto in classifica senza la verosimile speranza di finire in Champions l'anno prossimo, è chiaro che quella proposta, quella soluzione indicata alla UEFA diventa poco credibile, lì c'è poco da fare. Sì, insomma, mi pare di aver capito che la situazione dell'Inter sia parecchio complicata, poi vedremo a febbraio quale sarà il punto di caduta di queste sanzioni. Meglio la Roma, anche perché partiva da numeri diversi e anche perché in quel dossier l'idea dello stadio nuovo, il plastico, sì, l'abbiamo visto, c'è. Per fortuna della Roma il primo colloquio c'è stato con gli ispettori della UEFA prima che scoppiasse lo scandalo di Roma Capitale, che coinvolge anche il progetto della Roma, perché all'ordine del giorno dell'assemblea capitolina c'era proprio l'approvazione, ed era uno degli ultimi passaggi formali di riconoscimento dell'interesse pubblico per poi avviare i lavori. Ovviamente adesso il placet su questo progetto è rimandato, e questo nei successivi colloqui che farà la Roma con i giudici contabili della UEFA potrebbe anche pesare. Detto questo, quando sentiamo parlare di grande mercato per l'Inter a gennaio e ancor più a giugno, non è scorretto se manteniamo un po' di sano scetticismo, Paolillo? Infatti, cioè, la matematica non è un'opinione, i conti devono essere conti giusti e corretti, quindi se non c'è la possibilità di spesa, e non la vedo, perché le regole del financial fair play dicono una cosa molto chiara: uno può spendere in base ai ricavi, quindi se non c'è l'equilibrio dei ricavi costi non si può spendere, quindi oggi come oggi faccio fatica a vedere la capacità di spesa. Sì, con tutto quello che ne consegue, a meno che non parta qualche pezzo pregiato di mercato. Sì, consideriamo che la spesa più importante che l'Inter di Torino ha fatto, quella per Hernanes, parliamo di 22 una ventina milioni, di milioni più l'ingaggio importante per il giocatore, finora si è rivelata una spesa poco utile, poco fruttuosa, anche perché Hernanes, come faceva fatica a entrare negli schemi di Mazzarri, mi sembra faccia fatica anche a entrare negli schemi di Mancini, perché la convivenza con Kovacic è difficile. Teniamo conto anche di un aspetto, che paradossalmente questa finestra di mercato è l'ultima in cui l'Inter effettivamente ha maggiori margini di manovra, perché dalla prossima estate dovrà iniziare a pagare il famoso mutuo contratto con Goldman Sachs e con altri fondi con cui ha ristrutturato il debito. Dovrà pagare l'Inter 1 milione al mese e accantonare una quota di quella super rata da 184 milioni che scade nel 2019, per cui i margini di manovra. Sì, passaggio molto stretto e delicato questo. I margini di manovra sono molto limitati. E poi arriveranno certamente anche i limiti dell'UEFA, che a quel punto a giugno saranno operativi. Grazie, Paolillo. A tempo, e poi chiudo. c'è anche l'aggravio dei costi dovuto al cambio allenatore, che non era previsto quando... Lei l'avrebbe fatto da amministratore delegato dell'Inter, operazione da una trentina di milioni in due anni, se Mazzarri non trova altre soluzioni? Io avrei preferito comprare i giocatori, però... Togliera scelto calcio così. Il calcio è bello per lui nel modo suo. Grazie Paolillo. Un saluto. Grazie ad Ernesto Paolillo. 800240024. Ci sono Luciano dalla provincia di Vercelli, Gianluca dalla provincia di Ragusa. Cominciamo con Luciano. Eccoci. Pronto? Prego. Una cosa, innanzitutto complimenti scontati per la trasmissione. Una considerazione su quello che ho sentito dire più volte relativamente a Juventus e Roma, che non potranno mai vincere la Coppa dei Campioni. Può darsi che questo sia vero, ricordo e sfido e voglio il vostro parere a chi scommetteva sull'Atletico Madrid prima dell'avvento del Ciolo con la rosa che aveva, che avrebbe potuto arrivare a due minuti dalla vittoria invece della Champions l'anno scorso, visto che non mi pare che la rosa dell'Atletico a livello di nomi sia così superiore a quella della Juventus e della Roma. No, neanche il fatturato, se ci innamoriamo della classifica dei fatturati, ma voi lo sapete, io non amo tanto la classifica dei fatturati. Ad esempio, nelle ultime 9 Champions, per 5 volte ha vinto una squadra con un fatturato nella classifica dei fatturati dal quinto in su come posizione. È chiaro che avere il fatturato è fondamentale, diciamo, per le strategie di medio-lungo periodo e per quello che può essere il rendimento di una squadra nell'arco di più stagioni e soprattutto di stagioni che diano continuità al progetto tecnico. Quindi questo è fondamentale. Chiaramente nelle singole partite il fatturato conta molto meno, dovrebbe contare molto meno, per cui non sono neanche io all'idea che Juve o Roma non possano vincere la sì, Champions. La Juve soprattutto, insomma, la Juve ha già una rosa che può aspirare, poi la Champions è fatta di tante cose, bisogna intanto avere le idee, la tecnica, la tattica è fatta di mille particolari. Ma l'Inter del triplete, per intenderci, non era così poi più ricca rispetto a questa Juventus in confronto a Real Madrid e Barcellona, eppure quell'anno le ha tenute dietro. Assolutamente no, l'Atletico Madrid, per quanto poi la favola dell'Atletico Madrid vada mitigata con tutta una serie di altre considerazioni anche di carattere finanziario, perché la squadra è stata costruita anche con l'aiuto di fondi che hanno permesso, diciamo, alla società in difficoltà economiche di ristabilirsi. Detto questo, però, per fortuna, anche noi che amiamo i numeri siamo anche però innamorati del pallone e della imprevedibilità del calcio, per cui è chiaro che l'importante è avere un fatturato che ti permetta di essere lì e di esserci sempre o quasi sempre. Dopodiché le partite si giocano tra 11 giocatori e la tattica, l'imprevedibilità, hai detto bene, insomma, la palla è rotonda, non per essere banali, ma questo ci dà ancora una speranza affinché i club italiani, che pure sono ormai dietro nelle classifiche di fatturato, possano in qualche modo ambire perlomeno, diciamo, a vedere dalle semifinali in su, che sarebbe un bel successo. Altrimenti, se giocasse l'estratto conto, Napoli-Empoli sarebbe finita domenica pomeriggio 4-1 anche per il Napoli, in più, e invece avrebbe dovuto finire 4-1 per l'Empoli, insomma, per quello che è stato il rendimento in campo. Convocati. Allora, siamo qui, Gianluca dalla provincia di Ragusa. Gianluca. Sì, pronto? Eccoci. Allora, sono in diretta. Certo. Volevo chiedervi una cortesia. Siccome dopo il grande inizio delle squadre italiane tra Champions e Europa League, parlando un po' del ranking UEFA, se casomai una squadra italiana in Europa League la vince, una tra Inter, Napoli e Fiorentina, e la Juve arriva a fine semifinale quest'anno, quante possibilità abbiamo già da quest'anno di recuperare la Germania? 0,0 Gianluca, noi dobbiamo fare un progetto su 2-3 anni per pensare di recuperare quel terzo posto che vale la quarta squadra in più in Champions League. C'è da dire però che se tra oggi e domani una tra Juventus e Roma dovessero scivolare dalla Champions League all'Europa League, state tranquilli, non buttatevi giù dal balcone, potrebbe essere un grande favore al ranking italiano, lo dicono i numeri, non lo sto dicendo io, lo dice ad esempio l'esperienza della Juventus l'anno scorso, che ha fatto una buona Europa League da febbraio in poi. non vi annoio con i numeri, ha fatto molti più punti di quelli che avrebbe potuto mettere insieme arrivando ad esempio ai quarti di finale della Champions e fermandosi lì. Questi sono i numeri del ranking, quindi noi ci giochiamo molto a livello di immagine tra oggi e domani, perché sarebbe devastante per il calcio italiano a febbraio non presentarsi nemmeno con una squadra negli ottavi di Champions. I numeri del ranking dicono qualcosa di diverso. C'è questo particolare contro il quale peraltro le squadre italiane finora si sono battute in Europa, cioè l'assegnazione dello stesso punteggio tra Champions ed Europa League. Per fortuna la UEFA non ci hanno ascoltato, perché ora potrebbe essere un piccolo vantaggio visto il buon rendimento dei club italiani nella seconda manifestazione europea. C'è chi scrive e chiede come stanno i conti della Juve. Bella domanda, così in poche battute. Stanno abbastanza bene. Potrebbero stare meglio. L'indebitamento sta aumentando anche per il progetto Continassa, per una serie di investimenti importanti che ha fatto la Juve sul mercato. Però la Juve non avrà problemi di fair play finanziario da qui a qualche anno, mi sento di dire, insomma, perché si sta andando verso un equilibrio dei conti, insomma la gestione mi sembra abbastanza equilibrata. Sì, dal punto di vista economico ovviamente non c'è partita questa sera, la Juventus, domani la Roma, hanno tutti gli interessi del mondo ad arrivare a febbraio in Champions League, anche se l'Europa League è la sorella più povera, ma non così più povera rispetto alla Champions. La Juve dell'anno scorso lo dimostra, da febbraio in poi ha messo insieme 9 milioni di euro, che non sono i 12 garantiti da questa Champions, da qui alla seconda fase, ma restano comunque dei soldi. Se si fa seriamente l'Europa League, il punto è sempre questo, si può anche guadagnare qualcosa. Antonio da Piacenza. Sì, buongiorno. Senta, io non voglio annoiarvi con le storie del Milan, della Champions, perché fare tre finali come le avevamo fatte qualche anno fa in 5 anni mi sembra proprio impensabile. Io ho solo 34 anni, ma sono abbastanza lucido da dire: quest'anno non voglio andare in Europa League, non voglio andare in Champions League, almeno. Perché? Perché due soldi almeno li cominciamo a spendere, perché bisogna spendere tanto. E io vedo il Manchester a parità di fatturato, no? Posso capire che Real, Barcellona e Manchester United abbiano dei fatturati mostruosi, ma il Manchester United negli ultimi 3 giorni di mercato ha speso 1.000 miliardi di euro, ha comprato tutto quello che c'era da comprare. Noi invece compriamo un mezzo giocatore come Menez, che lo facciamo passare come fenomeno, quando invece non ha capito che si gioca in 11 e non passa mai la palla. Sì, Torres, mille miliardi di euro, Antonio, anche no. Di Maria, ha speso Falcao, tantissimo. Sì, ha speso Lente, tantissimo. Herrera, ne ha presi Shaw, ne ha presi una miriade di giocatori sopra i 20 milioni. Al di là che Falcao l'ha preso in prestito 12 milioni, poi gliene deve dare altri 24, adesso le cifre non le so, però ne ha spesi veramente tanti. Idem il Real, idem il Barcellona. Il Barcellona doveva avere il mercato bloccato, ha speso 60 milioni per Suarez. Noi siamo stati capaci di spendere i soldi di Balotelli, non siamo stati capaci di spendere quelli. Ma io dico, se il Milan non riesce a fare un gol a De Maio e a Izzo, io gioco da punta negli attaccanti degli amatori, ci faccio l'attaccante degli amatori della Dogana, ok? Io un gol lo facevo con De Maio, era una riserva nel Brescia. Sì, credo, Antonio, però, che se speri di vedere il Milan spendere come il Manchester United, dovrai attendere però, parecchio. Ho capito, però, nel senso, un minimo di progetto. Facciamo giocare scarti di altri giochi, di altre squadre, basta. Marco, ho detto, sì, non riuscire a segnare. Abbiamo dato Antonelli, l'abbiamo fatto passare per buon Antonelli, che era una riserva nella primavera di Barella. Sì, però in mezzo alle operazioni di mercato di questo Milan, di quello degli ultimi anni, che ha un progetto chiaro, che è quello dei parametri zero, non è stato tutto sbagliato. È stato sbagliato Torres, ad esempio, è stato azzeccato Menes con tutti i limiti che ha. Evidentemente non è stato un acquisto sbagliato. Buonaventura mi sembra un buon acquisto. Peraltro il mandato che è stato indicato dalla Fininvest in questi anni alla dirigenza, che era Galliani da solo fino all'anno scorso, ora tandem Galliani Barbara Berlusconi, era stato quello di dare autonomia finanziaria al club, e da questo punto di vista non ci sono più le perdite record da sopra i 50 milioni, insomma l'ultimo bilancio a meno 15. Questo significa che un certo equilibrio è stato trovato. Certo, è stato trovato tagliando forse troppo la rosa, tagliando troppo il monte ingaggi, e soprattutto non avendo il coraggio di dire ai tifosi che si sarebbe dovuto rifondare, ma rifondare veramente, cioè con i giovani, con acquisti mirati e non con i nomi. Sì, il discorso che si faceva un anno fa, più o meno di questi tempi, poi di quel analogo, discorso analogo lo facciamo adesso. È rimasto un Milan a due teste, però la parte sportiva è rimasta in gestione a chi il Milan l'ha gestito per 28 anni fino a qui, e che non ha cambiato politica evidentemente fidandosi quella... evidentemente delle proprie capacità e della propria linea strategica. Mi fai salutare Giovanni Bruno, direttore di Sky Sport? Salve. Ciao direttore, perché parliamo anche di Olimpiadi, non solo di calcio. Anche qui c'entrano i conti, perché oggi abbiamo letto sui giornali oggi abbiamo letto sui giornali della rivoluzione del CIO e quindi delle Olimpiadi che finalmente si mettono a dieta. Giovanni. Low cost, dicono. Sì, low cost per modo di dire. Infatti ci credo poco. Beh, però ci voleva, se i tempi dicono che c'è crisi in tutto il mondo e il CIO fa fatica a mettere insieme due candidate per le Olimpiadi invernali, evidentemente qualcosa doveva cambiare. No, no, perfettamente d'accordo. Ma ne vuoi parlare adesso o aspettiamo? Ne parliamo adesso. Ah, va benissimo. Sì, sì, non assolutamente, dovevano darsi, tra virgolette, una calmata, era diventata una situazione troppo gigantesca per certi versi, ma alla fine poi... ne hanno pagato queste le Olimpiadi invernali, anche perché d'invernale è rimasto ben poco, anche perché sono più le città di mare che poi ospitano le Olimpiadi invernali. Comunque è giustissima la stretta che c'è stata, soprattutto sul numero delle gare e sul numero degli atleti massimo, questo secondo me è molto importante. Cosa importante pure quella di aprire ad altre città e ad altri paesi. Si perderà un pochino quel fascino, diciamo, della monocittà, in cui uno usciva da un palazzetto per andare a vedere, dopo aver visto una gara di basket, per andare a vedere magari una gara di volley nel palazzetto accanto. Ecco, questo magari può non esserci, o la mattina andare a vedere l'atletica e il pomeriggio andare a vedere un'altra competizione vicino, perché chiaramente se andranno su un concetto di decentralizzazione, allora altre città, vedi, può essere un'ipotetica Milano che ospita il basket e il volley, come Napoli la vela, cosa che è già successo poi nel 1960, però insomma, diciamo, con interventi anche importanti di altre città o paesi, viene accettato anche quello, limitrofi, ovvero sia se c'è, facendo una finta di un'Olimpiade invernale, delle gare a Courmayeur, facendo l'Olimpiade a Genova, tanto le distanze sono le stesse, Olimpiadi genovesi invernali, gare di sci le fanno a Courmayeur, si può anche fare la gara di sci a Chamonix, che magari ospita la discesa libera, se non ci stanno le situazioni tecniche necessarie per Courmayeur. Ecco, sì, un esempio. Possiamo farci passare l'idea di giochi spalmati su tutto il territorio di una nazione, opinione personale, non so se Marco Bellinazzo la condivide, l'idea che si faccia come l'europeo itinerante. Bravo. Nel 2020 scelto da Platini, a me lascia un po' perplesso. Sì. No, ma questo lascia perplesso per le Olimpiadi. Quello che si potrà anche fare, ecco. Sì, però si snatura un po' il fascino delle Olimpiadi. Ma questo è fuori discussione. L'idea che si possono fare le Olimpiadi di Roma appaltando una gara alla Svizzera, ad esempio. Sia fondamentale che restino comunque nel territorio di una singola nazione, anche per una questione, per esempio, di coordinamento dei lavori infrastrutturali che dovranno essere fatti e che, aspetto non secondario, diventano invece, diciamo, cruciali per il buon esito della manifestazione, soprattutto affinché la stessa sia redditizia, se non nell'immediato per gli organizzatori, per il paese, perché, come Giovanni Bruno sa bene, insomma, ci sono state Olimpiadi che hanno effettivamente cambiato il volto delle città e dato un futuro a territori che invece non lo avevano. Sì, anche se quelle immagini, quelle che abbiamo visto anche recentemente, 10 anni dall'Olimpiade di Atene, quelle che ci hanno raccontato quest'inverno anche la trasformazione di Sochi in qualcosa che non era prima e forse non sarà poi, evidentemente hanno convinto il CIO e non solo il CIO, anche i governi, che era impossibile proseguire sulla strada che era stata intrapresa. No, verissimo, però ci stanno anche dei dati positivi, come può essere Barcellona, come una, diciamo, impianti di Barcellona straordinari, come può essere anche la stessa Londra, che da un pessimo quartiere eccetera eccetera ha creato un parco olimpico con delle situazioni estremamente positive. Certo, Londra ha una situazione di trasporti straordinaria, cosa che se mai dovessimo organizzare le Olimpiadi nel 2024 a Roma, l'elemento primario è quello, ma già c'era il famoso disegno iniziale di Roma 2020 che era, a mio avviso, sbagliatissimo, con cioè, impianti a Tor Vergata e a nord di Roma, cioè che, lo spostamento era micidiale. Sì, pur restando di fatto a Roma. C'è il traffico, poi torniamo a proposito di Roma 2024. Ieri il presidente del CONI Malagò è uscito dal consesso del CIO con la certezza che Roma può correre e può correre con solide speranze di prendersi quell'Olimpiade. Oggi leggevo su qualche sito francese che il presidente del CIO, Bach, ha detto: Beh, Parigi, se si candidasse, sarebbe una candidatura solida, perché forse le Olimpiadi così cominciano a interessare a tanti. Traffico. C'è il traffico! Come diceva quel famoso spot, non si interrompe così un'emozione, hai capito? Tutti convocati. Sì, perché c'è che l'Italia sogna questa Olimpiade del 2024, da ieri la sognano Giovanni Bruno anche gli altri. Certo, gli altri sarebbero i francesi. Francesi molto forti è vero, molto pericolosi su tutta la linea, perché sono rimasti scottati da Londra 2012, perché la vera candidata per l'Olimpiade del 2012 non era Londra, ma era Parigi. Parigi era data, diciamo, stravittoriosa. E invece il gran lavoro fatto da Sebastian Coe e dall'organizzazione inglese ha comportato un notevole successo. E questa è una. La seconda cosa sono i 100 anni dall'Olimpiade del 1924 di Parigi, la seconda Olimpiade. Stadio di Coulomb, memorabile per il famoso film Momenti di Gloria, Chariots of Fire, che poi esaltava le vittorie inglesi, ma comunque. Quindi sono molto forti, l'organizzazione dei francesi è notevole. Poi vediamo. Noi... E quindi da ieri abbiamo la certezza di avere un nemico più in casa. Capita. In casa si intende in Europa, perché poi c'è sempre il solito discorso sull'alternanza. Ad esempio ci sono gli Stati Uniti, che con una candidatura decente potrebbero far propria questa edizione delle Olimpiadi. Insomma, percorso molto complicato, percorso che nel recente passato ha riservato parecchie amarezze per l'Italia. Ultima annotazione sulla svolta del CIO. Io lo dico chiaramente, l'idea che chi organizza possa inserire a piacere sport e discipline per renderlo più attrattivo dal punto di vista commerciale al proprio pubblico, ecco, questa è un'altra delle idee che secondo me andrà monitorata con attenzione. Vero. Giovanni? Vero, vero, vero, vero. Guarda, due cose. La prima, tra le città concorrenti ci sarà per l'ennesima volta Baku. Lo dico non con ironia, ma con realtà, perché comunque organizzeranno a giugno i primi giochi olimpici europei dal 12 al 28 giugno, quindi per loro è anche un banco di prova e quindi diciamo può essere molto interessante. Come è stato un disastro i giochi del Commonwealth per l'India e quindi scartate immediatamente un'ipotetica candidatura per quanto riguarda, diciamo, la nazione indiana e quindi Nuova Delhi o cose di questo genere, Baku potrebbe essere una solida alternanza, anche perché ci ha provato svariate volte, quindi gli hanno assegnato questi giochi olimpici europei, pericolosa. La realtà però a Baku ci sta, per esempio, come disciplina scelta dal paese organizzatore, Sambo, che non è una danza, non è ballando sotto le stelle, ma è un tipo di lotta russa. Sarà per invogliare il pubblico, sai, però anche lì bisogna fare molta attenzione. Comprendo che per esempio può ritornare il baseball se ci fosse un'Olimpiade americana, ma diciamo sul sambo avrei delle difficoltà. Ma anche il sumo, il softball, ad esempio parlando di Tokyo e del Giappone. Ah, io ho dei seri dubbi pure sul rugby a 7 e sul golf, se posso dirla tutta, per quanto riguarda le Olimpiadi di Rio. Francamente rinunciare, a me lo dico per partito preso, a una medaglia diciamo nella scherma, perché chiaramente voi sapete perfettamente che a Rio al momento non ci sarà la prova del fioretto femminile, perché a rotazione a ogni Olimpiade vanno fuori due prove a squadre e quest'anno l'Olimpiade di Rio lascerà a casa il nostro Dream Team sulla prova del fioretto femminile, se non ricordo male la sciabola maschile, quindi noi possiamo perdere ipoteticamente due medaglie. E per dare spazio al rugby a 7, perché chiaramente il rugby a 15 è improponibile in un'Olimpiade vista la durata, sì, vista la complessità della gestione del torneo, benissimo, e il golf invece la sua prima edizione super professionistico, che tra l'altro schiererebbe un nostro piccolo fuoriclasse che sarebbe Paratore, che ha già fatto le prove per diventare un grande golfista. Insomma, queste sono un pochino le difficoltà, sì, in cui andranno. Attenzione a non rendere i giochi senza frontiere. Sì, però, gli aspetti, giustissimo, sono d'accordo con voi, in pieno, commerciali minimo sono, di serietà, sono anche perché io ho sempre negli occhi la magnifica Londra con 120.000 persone ad assistere alla gara di triathlon a Hyde Park. Ecco, immagino una maratona a Roma nel 2024, sempre con arrivo sotto l'Arco di Tito, insomma, una cosa meravigliosa secondo me. Sì, aspetti commerciali ovviamente sono fondamentali, ma non si deve rischiare di snaturare una competizione. Ecco, magari si dovrebbe far passare l'idea che queste competizioni, diciamo, alternative siano presenti, ma magari, ecco, certo, in forma sperimentale, sì, o con qualche altra formula. Si può fare show senza toccare la sacralità delle Olimpiadi. Poi c'è chi scrive: non facciamo correre Roma, non diamo altri soldi alla mafia. Noi facciamo finta di dimenticarci quello che stiamo leggendo sulle altre pagine dei giornali, non le pagine sportive. Per fortuna non si... Ma evidentemente questa è anche l'immagine che diamo fuori. Non si vota adesso, ma questo potrebbe incidere. E però io credo che sia fondamentale acquisire la possibilità e il diritto di organizzare una manifestazione sportiva. Certamente. Per esempio il calcio italiano patisce ancora le fallite candidature per organizzare gli europei del 2012 e del 2016, laddove invece la stessa Francia ha utilizzato questa occasione per rimodernare i propri impianti anche con interventi pubblici, questo non dobbiamo nasconderlo, e la stessa cosa è avvenuto in Germania, la stessa cosa è avvenuto in Gran Bretagna. Certo. Io ho paura che senza una grande manifestazione che l'Italia otterrà, e quindi senza lo sforzo dell'intero paese, lo sforzo produttivo per far sì che quella manifestazione riesca, gli stadi italiani sarà sempre più difficile farli e l'iniziativa privata stenterà a modernare un sistema impiantistico, ricordiamolo, che ha oltre 60 anni e che è sotto gli occhi di tutti, insomma non garantisce quei ricavi che servirebbero al sistema. L'ha detto anche il presidente Tavecchio recentemente: perché fare stadi nuovi? Difficile, impossibile, meglio riammodernare quelli che ci sono oggi, ha detto il presidente della Federcalcio. A voi lascio il commento, grazie Giovanni. Mamma mia, meglio di no, meglio rifarli, guarda, vi assicuro, cioè basta non fare le cattedrali nel deserto, vedi stadio di San Nicola a Bari, in Bari, o altre cose, perché è un disastro lì. Prendiamo esempio dagli inglesi, che hanno smontato campi di basket per portarli in Scozia dove non giocavano, hanno messo in piedi quelle cose lì, oppure tagliare gli stadi da 80.000, ridurli a 42.000, molto più accessibili, quello che succederà tra 4 anni, se non ricordo male, proprio allo Stadio Olimpico di Londra. Basta copiare gli altri, perché i modelli già ci sono. Grazie a Giovanni Bruno. Sono fatti bene. Grazie Giovanni Bruno. Ciao, arrivederci, grazie. Grazie Giovanni Bruno, direttore di Sky Sport. Abbiamo ancora 2 minuti e io ho 2 domande per te. La prima: ci chiedono se sono così a posto con i conti inglesi, tedesche e spagnole. Generalmente sì, una domanda un po' generica. Spagnolo è un po' meno, ma i tedeschi hanno sì, un mega debito con il fisco spagnolo. Gli inglesi beneficiano di un contratto TV che ha fatto schizzare il 70% di introiti, per cui diciamo, l'ultima squadra della Premier da diritti TV incassa quanto la Juve o poco meno, e le spagnole hanno qualche difficoltà ma si stanno riprendendo e hanno le 2 squadre che hanno il maggior fatturato in Europa, cioè Real e Barcellona. E poi c'è chi, dopo aver sentito Paolillo e la questione dei conti di Toir, che tira le somme e dice: il cambio Mazzarri-Mancini è stata una follia. Beh, economicamente parlando, economicamente poi, parlando, vedremo. Se Mazzarri non troverà presto un'altra squadra è un bagno di sangue, insomma, l'abbiamo detto, l'abbiamo scritto, ed è l'ultima cosa che la UEFA si sarebbe aspettata dall'Inter. Non a caso l'esonero è avvenuto dopo il primo colloquio e quindi in qualche modo non so se la dirigenza ha atteso in maniera consapevole, di fatto è andata così. Hanno fatto un po' i furbi. Ci fermiamo qui, grazie a Marco Bellinazzo, grazie a Franco Piantanini, autore di questa puntata, Daniele Bonamici in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Domani torna Carlo Genta con Pierluigi Pardo dopo il GR delle 14. Ciao. Nessuno me lo porterà via il titolo legittimamente. Molti non sono fortunati, come quello che faceva Marlon Brando in fronte del Porto. Un pugile che era in ascesa e si era ritrovato in mezzo alla strada. Te la ricordi quella scena sul sedile posteriore della macchina col fratello Charlie, uno da 4 soldi? Diceva presso a poco così. Non è stato lui Charlie, sei stato tu. Quella sera al Garden, ti ricordi, venissi nel mio spogliatoio e dicesti: figliolo, non è la tua serata, abbiamo venduto l'incontro a Wilson. Lo potevo fare a pezzi Wilson, e invece lui si è trovato la strada spianata per il campionato del mondo, e io che ci ho guadagnato, un accidente che ti spacca, ci ho guadagnato. Da quella sera non ho combinato più niente, Charlie. Ero arrivato in cima a una montagna e sono finito a valle. Sei stato tu, Charlie.